L'impero non può attendere. Demolite Milano! Demolite Milano! Fallito il tentativo di ricondurre i comuni lombardi all'obbedienza con la forza del diritto, l'imperatore impone quella delle armi, mettendo a ferro e a fuoco castelli e città. Ultima a capitolare è Milano e pagherà il prezzo più alto. Negli anni in cui il giovane imperatore saliva al trono, l'Europa stava uscendo da una lunga fase di anarchia o, se vogliamo essere più precisi, di dissoluzione del potere. Da tempo immemorabile l'autorità era stata frantumata, usurpata, comprata e venduta, al punto che chiunque avesse i mezzi per fortificare anche rozzamente i propri possedimenti aveva finito per riscuotere imposte, giudicare liti e battere moneta. Da tempo immemorabile gli uomini si erano avvezzati a riconoscere come potere legittimo solo quello che potevano vedere e toccare ogni giorno e a cui avevano giurato personalmente fedeltà, che si trattasse di un signore locale o di un comune, mentre riservavano al re un'obbedienza puramente formale e a volte nemmeno quella. Certo, il monarca era consacrato e dunque dalla sua persona emanava una sorta di carica magica che gli valeva il rispetto della gente comune. Le persone colte, che non erano molte ed erano quasi tutte vescovi o monaci, sapevano che il re, più dei principi e dei piccoli signori locali, incarnava il concetto di una autorità che noi oggi definiremmo statale e che essi chiamavano res pubblica. Ma tutto questo per molto tempo era rimasto sulla carta e nessun regnante, men che mai l'imperatore, aveva goduto nei fatti di un'autorità pari alle pretese. Il ritorno dello Stato. Ora però i tempi erano cambiati. In Francia Re Luigi VII, col consiglio dell'abate di Saint-Denis, Sughero, aveva cominciato a reprimere l'insolenza dei magnati e ridare alla regalità capetingia un lustro che poteva anche ricordare alla lontananza i bei tempi di Carlo Magno. Mentre in Inghilterra, proprio nei giorni in cui il Barbarossa piantava le sue tende a Roncaglia, si preparava l'incoronazione di un altro giovane re, Enrico II, cui i magnati del regno, dopo anni di ribellioni, avevano finalmente giurato obbedienza. Ma oltre alla fedeltà dei principi e dei vescovi, che per secoli era stata l'unica risorsa dei regnanti, questi sovrani cominciarono a disporre anche di altri strumenti. Grazie allo sviluppo dei traffici e alla prosperità dei mercanti cittadini, da cui riscuotevano imposte e pedaggi, i re avevano denaro e potevano usarlo per pagare giudici, scrivani, addirittura uomini d'armi, come non si era mai fatto a memoria d'uomo. Al tempo del Barbarossa, insomma, era cominciata quella riscossa dello Stato che alla fin fine non si sarebbe più fermata fino a oggi. Mai più Europa avrebbe conosciuto un'epoca di frammentazione del potere e di impotenza dei governi centrali, come quella che aveva attraversato a cavallo dell'anno 1000. E se ciò accadeva nei regni di Francia e d'Inghilterra, non si vede perché non avrebbe dovuto accadere anche in quelli di Germania e d'Italia, riuniti sotto lo scettro imperiale, tanto più che rispetto a quei re, l'imperatore disponeva anche di un'altra risorsa di eccezionale importanza: la legge dell'imperatore. Nella prospera Europa di quegli anni non crescevano soltanto la popolazione, i raccolti agricoli e i traffici, cresceva anche il numero di quelli che sapevano leggere e scrivere e disciplinare il proprio ragionamento nelle forme rigorose della lingua latina. Nelle città si moltiplicavano le scuole e non solo per studiare teologia o medicina, ma anche diritto. Il che voleva dire soprattutto riscoprire il diritto romano nelle monumentali codificazioni di Teodosio e Giustiniano. Un numero crescente di persone si abituava pertanto a vedere il mondo attraverso il filtro del codice giustiniano, ed erano proprio quelli che poi servivano in qualità di giudici i potenti in questo mondo e che scrivevano trattati per insegnare agli incolti l'ordinamento ideale della società. Ma il diritto romano era quello della Roma imperiale, tagliato su misura per un governo centralizzato e dispotico, autorizzato da Dio a rivendicare un'autorità assoluta su tutti i cristiani, e cioè, in ultima analisi, sul mondo intero. Federico Barbarossa, re di Germania e d'Italia, anche dopo essere stato incoronato imperatore a Roma, non avrebbe certo potuto avanzare, nella pratica, rivendicazioni così ampie. Ma che fosse lui l'imperatore, il successore di Augusto e Costantino, di Teodosio, di Giustiniano e di Carlomagno era un fatto, e la sua politica non poteva non trarne un immenso vantaggio in termini di immagine. I comuni italiani si vantavano di ispirarsi alla libertà di Roma repubblicana, al punto che avevano dato il nome classico di consoli ai loro magistrati. L'imperatore avrebbe ribattuto che Roma era l'impero e chi non riconosceva l'autorità imperiale era un barbaro, oltre che un cattivo cristiano.